Maria Teresa. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Parlo con Nicoletta o con Deborah? Buongiorno Nicoletta, ma è proprio lei al telefono? Sì. Visto quello che succede da voi. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Piacere di sentirla. Anche per me, grazie. E a me non mi saluta, Cristiano? Non mi ricordo il suo nome. Bello. Dottor Gargiulo, ma è davvero lei a dirlo? Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cercasi volontari per l'estate della solidarietà. Noi abbiamo accolto l'appello dell'AUSER, associazione nazionale impegnata a promuovere l'invecchiamento attivo degli anziani e la crescita del loro ruolo nella società, che anche quest'anno invita giovani e meno giovani, pensionati e non, a dedicare qualche ora della settimana agli anziani per aiutarli ad affrontare con serenità i disagi legati all'estate. In linea con noi abbiamo il presidente dell'AUSER, il dottor Enzo Costa. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Eccoci qua. Presidente, estate, tempo di partire ma anche di occuparsi di chi resta in città, e a questo da anni ci pensa l'AUSER. Sì, estate è un momento difficile per tanti soggetti deboli, tra questi soggetti deboli ci sono gli anziani, che non sono una parte marginale della popolazione di questo paese. Oggi gli over 65 anni in Italia sono il 21% dell'intera popolazione, la tendenza è ad un invecchiamento sempre più crescente, andiamo incontro a percentuali tipo il 30%. Stiamo parlando di una popolazione anziana che in larga misura è autosufficiente, per cui può essere coinvolta in processi che noi chiamiamo di invecchiamento attivo, ma che significano di collaborazione fattiva per risolvere i bisogni che questa società ogni giorno presenta, vecchi e nuovi bisogni. Ma una parte di questi, siccome le aspettative di vita ormai sono medio lunghe, stiamo parlando, finita l'età lavorativa, di circa 20 anni come periodo di tempo di aspettativa, si arriva ad una fase in cui l'autosufficienza inizia a venir meno, inizia la fase della non autosufficienza, e il dramma è per quegli anziani che in quelle condizioni si trovano soli, oppure in estate, che perché aumentano, vengono lasciati soli. C'è un numero impressionante, perché stiamo parlando dai 4 ai 5 milioni di persone che vivono da sole in un periodo che per un'età avanzata è un periodo terribilmente difficile. E quindi diventa, Presidente, difficile. Ecco, prego. Quando voi, come dire, dite e raccontate che lanciate la campagna AAA Cercasi Volontari per l'estate della solidarietà, in che senso avete bisogno di questo aiuto? Come intendete eventualmente dispiegare questa forza del volontariato? Allora, noi a queste persone fragili offriamo un punto di riferimento, lo offriamo attraverso un numero verde che è l'800-99-5988, che è un numero gratuito, si può chiamare da tutta Italia tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 20, e quel numero ti mette in contatto con l'ufficio Hauser più vicino al tuo domicilio. Noi ne abbiamo circa 1500 aperti in tutte le regioni d'Italia, e l'Hauser non va in ferie, questo lo voglio sottolineare. E l'Hauser non va in ferie. Che cosa succede? Attivando questa chiamata si ha un riferimento di, quindi c'hai una persona che raccoglie un bisogno, la tua richiesta, il tuo bisogno. La richiesta può essere la più svariata. Ho bisogno delle medicine, non posso uscire, ho bisogno della spesa, non posso uscire, ho bisogno di semplice compagnia, ho bisogno di un trasporto sociale per andare a fare una visita di controllo all'ospedale o una visita specialistica. L'Auser è presente, glielo dico per esperienza, perché ormai siamo alla quinta stagione estiva che facciamo, il numero continua a crescere e a volte le persone hanno bisogno solo di sapere che c'è un punto di riferimento che in qualsiasi momento si attiva per loro. A volte ci chiamano per chiederci: ma io posso rivolgermi a voi anche per fare una semplice chiacchierata telefonica, per dirvi che sto bene, oppure per chiedervi di chiamarmi una volta al giorno. Quindi avete bisogno di volontari per mantenere attivo un servizio di questo tipo. Ottimo. I volontari possono, dottor Costa, rivolgersi all'Auser e quindi dare la loro disponibilità. Sì, quando diciamo giovani e meno giovani è perché l'estate è il periodo in cui le scuole sono chiuse, quindi tanti giovani hanno moltissimo tempo a disposizione, ma a noi piace anche coinvolgere direttamente gli anziani in questo lavoro, perché ci sono degli anziani giovani e prestanti. Guardi, noi ne abbiamo 48.000 in tutta Italia attivi che fanno i volontari di anziani, come abbiamo tantissimi giovani. Donare qualche ora del proprio tempo fa bene agli altri, ma fa bene anche a se stessi. Grazie al presidente dell'Auser Enzo Costa. Ricordiamo un numero verde 800 99 59 88. Naturalmente tutti i riferimenti dell'Auser e di altre associazioni che si occupano degli anziani le troverete sulla pagina di Cuore Denari. Buon lavoro, presidente. Buona giornata. Grazie a voi. E buona giornata. Aiutare fa bene, Deborah, lo dicono molte ricerche, ma noi vogliamo sentirlo anche raccontare dalla viva voce dei volontari che ci stanno ascoltando e sappiamo che sono tanti. Chiamateci se assistete nel vostro tempo libero anziani, malati, persone in difficoltà, ma chiamateci anche per raccontarci come e quanto la presenza di un volontario vi ha aiutato o è stato d'aiuto ad un vostro familiare, perché è bello sentire le storie di chi dà, ma è anche bello sentire le storie di chi riceve. Fondamentale in momenti come quello attuale, che è quello dell'estate appunto, è il ruolo delle forze dell'ordine per prevenire tante situazioni complesse. Sono molte le cose a cui si deve fare attenzione, non va dimenticato che d'estate, si sa, la microcriminalità aguzza l'ingegno. Allora possiamo farne le spese tutti, ma alle persone anziane va prestata un'attenzione particolare. Nel corso della puntata noi parleremo anche delle iniziative che le istituzioni mettono in campo per proteggere questa fetta così importante di popolazione, non solo per quello che riguarda la sicurezza. Ad esempio ad Aosta c'è la campagna Estate in Sicurezza, con presidi informativi di assistenza nelle piazze, assistenza nei vari quartieri e la diffusione delle buone pratiche per combattere il caldo. A Firenze e dintorni c'è Estate Sicura Anziani, che diffonde per esempio un decalogo per combattere il caldo anche in questo caso e prevede una collaborazione con le case di riposo, con la possibilità di scambio reciproco di ospitalità e di apertura al territorio. In realtà questi sono solo due esempi, noi poi racconteremo per esempio cosa succede a Milano, una grande città. Tutto questo per magari suggerire anche alle persone che si sentono sole ed abbattute: cercate di capire se il primo cittadino del vostro paese magari vi ha organizzato qualcosa. Voi ne siete venuti a conoscenza, quindi come dire, attivatevi anche per andare a caccia di informazioni sulla modalità con cui la città si anima per stare insieme appunto alle persone anziane. E raccontateci appunto quali sono le iniziative nel vostro comune, ne avete qualcuna particolare utile che volete segnalare? Oggi vogliamo proprio fare una mappa. 800 24 00 24, ma abbiamo piacere anche di raccogliere le vostre richieste di aiuto, soprattutto se avete un familiare anziano da assistere. Se volete raccontarci come pensate di affrontare l'estate, come è andata nell'estate precedenti, noi siamo qua a vostra disposizione con i nostri esperti. Saper invecchiare è il capolavoro della saggezza, è una delle cose più difficili nell'arte difficilissima della vita. Henri Frédéric Amiel, filosofo, poeta e critico letterario. Gli anziani rappresentano il 20% della popolazione e un dato interessante è la crescita degli ultra 85 anni. Stiamo parlando di un universo molto variegato. Il dato anagrafico definisce in modo rigido l'appartenenza a questo gruppo sociale, quello degli ultra 65 anni, che esprime in realtà una gamma di potenzialità e bisogni estremamente diversificata. Ci sono anziani attivi che vivono la terza età come un'età piena e soddisfacente, come una seconda giovinezza, anziani che aiutano i figli, allevano i nipoti, anziani che a loro volta sono caregivers di fratelli o parenti più anziani, e ce ne sono altri che invece rappresentano il lato fragile della terza e della quarta età, anziani bisognosi di cure, anziani che devono essere aiutati a mantenere il loro benessere, anziani che devono essere protetti dal rischio di ammalarsi. Ne parliamo oggi con la dottoressa Maria Lia Lunardelli, direttore dell'unità operativa di geriatria del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Buongiorno. Quando parliamo di anziani, soprattutto oggi, professoressa, è vietato generalizzare, perché gli anziani sono tra loro molto diversi. Non è solo una questione di età, come anticipava Debora, altri fattori vanno considerati: la salute, l'autosufficienza, non solo fisica ma anche economica, e anche la scolarità, gli interessi, l'ambiente. Certo. Ringrazio intanto dell'invito e soprattutto in questo contesto, ho sentito già i primi interventi, si colloca in un ambito più generale, quindi non solo medico. Consideriamo l'invecchiamento, il raggiungimento dell'età più avanzata come un successo, no, per la nostra società, ed in effetti è così, ormai non solo nei nostri paesi industrializzati ma anche quelli in via di crescita abbiamo un aumento del numero degli anziani, soprattutto, come ha giustamente detto lei, aumentano i più vecchi, i cosiddetti oldest old, i grandi vecchi, gli ultra 85 anni, e assistiamo addirittura a un aumento molto più elevato in percentuale, quindi non come numeri assoluti, degli ultra 90 anni e persino dei centenari. Questo proprio anche nella nostra nazione, dove ci sono un numero consistente di centenari. Questo significa che appunto abbiamo raggiunto un livello di economico, sociale e anche un livello assistenziale dei sistemi sanitari che hanno permesso di raggiungere questi ottimi livelli. E questo significa che la maggior parte degli anziani, anche se anagraficamente tendiamo ancora, e per motivi demografici più che altro, a considerare da 65 anni in poi la classe di età anziana, in realtà noi come geriatri e anche altri come studiosi appunto dei fenomeni epidemiologici sappiamo benissimo che gli ultra 65 anni di oggi non necessariamente identificano una classe a rischio. Tanto è vero che la geriatria in senso clinico si occupa degli ultra 75 anni e degli ultra 80 anni, man mano si sposta, ogni ventennio ci spostiamo, perché questo è anche il tasso di miglioramento biologico che la nostra popolazione sta acquisendo. Quindi, insieme alla pensione, mi verrebbe da dire, dottoressa Lunardelli, quella donna di denari ogni tanto, esatto. Puntualizza certi aspetti, certo. Quindi prego. Noi in questo universo degli anziani abbiamo la maggioranza, che se posso riferirmi anche a una distribuzione, ad esempio in Emilia Romagna, dove io vivo e lavoro, uno studio che si chiama Passi Argento, si vedeva che nella popolazione anziana il 45% era costituito da anziani sani, autonomi, con qualche malattia, ma comunque di modesta entità e compensata, in un contesto socio-economico favorevole, sì. Quindi a basso rischio di malattia o di fragilità. Un 25% di persone a rischio di malattia che si può riacutizzare o diventare cronica, e anche di fragilità, e poi un 18% che presentava già dei segni di fragilità, e adesso poi entrerò nel merito, e i veri e propri disabili, cioè coloro che hanno bisogno di un'assistenza per svolgere le attività della vita quotidiana, che possono essere dal muoversi al pensare alla propria igiene personale, al parlare, avere quindi le possibilità di svolgere una vita anche fuori casa, che sono il 12%. Ecco, se vogliamo prendere questo come esempio, che pur tenendo conto delle differenze, comunque queste sono un po' la distribuzione. la distribuzione. Quindi noi abbiamo molti anziani in buone condizioni o che vivono una situazione che può essere a rischio di fragilità. Bene, questo rischio è determinato appunto da spesso non solo da condizioni relative alla salute dell'anziano, ma anche da fenomeni esterni. E adesso oggi credo che avete già introdotto il tema dell'estate, indubbiamente sì. L'estate con i possibili rischi delle ondate di calore è uno di quegli elementi che può mettere a rischio di scompenso, di fragilità una persona che vive, come dice un grande geriatra, William Hazard, il paziente geriatrico è un paziente che vive sul filo del rasoio di una buona funzione, quindi di una discreta salute e compenso, e invece il rischio di precipitare in una situazione di scompenso. Certo, anche perché dottoressa, di perdita dell'autonomia. Dottoressa Lunardelli, la persona anziana deve spesso compensare più malattie, è un paziente abbastanza complesso e in questa parte dell'anno la solitudine, il cambiamento anche climatico possono interferire anche su alcune patologie. Di questo naturalmente parleremo nel corso della nostra trasmissione insieme alla nostra esperta, ma parleremo, Deborah, anche dei rischi, altri rischi esatto. A cui possono incappare esatto. Gli anziani. Mi sono stampata proprio questa mattina le notizie più recenti su le varie tipologie di truffe che in questo periodo appunto vengono messe a segno proprio a danno degli anziani. Vi leggo le ultime che ho appunto ritrovato questa mattina, poi le commenteremo con un funzionario di polizia. Per esempio, nel genovese, una donna di 90 anni a Sestri Ponente ha aperto la porta ad un uomo che si è finto un incaricato dell'Enel per un controllo sulle bollette. Alla donna ha detto che risultava un debito di 80 euro e si è fatto consegnare i soldi, poi le ha rubato 1800 euro. Ma di casi come queste, ogni estate è piena. Addirittura nel napoletano è stata sgominata quella che è stata ribattezzata la truffa della caparra, perché appunto questo gruppo di malviventi, erano addirittura 9, riuscivano ad attirare queste persone anziane riuscendo a truffarle naturalmente con uno stratagemma che è piuttosto noto, quello di presentarsi come amici di nipoti o d'altri parenti, per cui c'è il bisogno appunto di vedersi restituita qualche somma. Insomma, quindi tutto questo per ribadire, ecco, fate attenzione e soprattutto magari alle persone anziane, se voi siete giovani raccomandate di fare attenzione, di non aprire a nessuno, e insomma sono banalità, ovvietà, però qualche volta in realtà ci si cade in totale buona fede. Assolutamente, fatelo, perché come si dice da un anno all'altro si cambia molto, per cui anche il nostro genitore, che sembrava assolutamente forte, capace esatto. di proteggersi a sua volta, di proteggere gli altri, può cadere in queste trappole. A proposito di cambiamenti, quali sono i cambiamenti che avete notato nei familiari anziani che vivono con voi o nei vostri amici, o quali sono i cambiamenti in voi che considerate come segno degli anni che passano? 800 24 00 24, ne parleremo oggi con la professoressa Lunardelli, che resterà con noi sino alla chiusura della trasmissione per commentare anche tante iniziative che presenteremo nel corso della puntata. Però c'è anche l'importanza del tema dello stile di vita protettivo e preventivo, che aiuta ad invecchiare bene. Io a tal proposito direi che inaugurerei le nostre telefonate con la bella testimonianza di Renata da Verona. Buongiorno. Buongiorno carissime Deborah e carissima Nicoletta, dopo tanto mi sento. Eccoci bene. E vi ascolto in diretta, ecco. Brava Renata. Grazie. Allora. Allora, io ho 78 anni, ecco, e ho avuto la mamma con l'Alzheimer 20 anni fa. E per cui il libro del dottor Filippo Ongaro per me è come una Bibbia, lo seguo. Quale? Perché sa che il nostro dottor Ongaro di libri ormai ne ha scritti tre, a quale libro si riferisce? Mangia che ti passa. Mangia che ti passa. Il bestseller. Sì. Ecco, il bestseller. Vero. E quindi che cosa fa Renata, per esempio? Io comincio con la colazione, con il... con la, con gli esercizi fisici, vado in bicicletta, faccio camminate e poi mi sento utile davvero, perché guardi, sono vicepresidente di due associazioni, una la Seconda Primavera, che è proprio dedicata agli anziani e soprattutto alle persone Alzheimer. Sì. Che la troviamo, ha un sito internet questa Seconda Primavera, che mi piace. Non l'abbiamo aggiornato. Mannaggia, però fatelo, Renata. Però senta, c'è una associazione veneta, ed è l'associazione Alzheimer Pio X di Riese, che è un esempio per tutti, tanto è vero che la Regione Veneto ha invitato tutti i direttori e i dirigenti dei servizi sociali di avere lo stesso modo per assistere l'Alzheimer. Grazie. Renata, volevo commentare, mi scusi se la interrompo, commentare questo stile di vita di Renata insieme alla nostra ospite, la professoressa Lunardelli, perché come anticipava Deborah c'è anche uno stile protettivo e preventivo, uno stile che aiuta le persone ad invecchiare bene, anche quelli che hanno superato i 65 anni, che sono inseriti in quella categoria anziani ma che vivono in modo pieno e attivo la loro terza età. Sicuramente lo stile alimentare, ma anche, professoressa Lunardelli, l'occuparsi degli altri, tenere attiva un po' la mente. Direi che la signora che ha chiamato è un esempio da seguire, insomma, per tutti gli anziani che sono in ascolto, perché oltre che curare gli aspetti dell'alimentazione, come avete sentito, dell'attività fisica, che sono i due cardini proprio per la prevenzione dell'invecchiamento, nel senso della prevenzione della fragilità, perché la fragilità comincia proprio con una debolezza muscolare, cioè quella che si chiama la sarcopenia, cioè si perdono i muscoli per molti fattori, ma sicuramente una buona alimentazione e mantenere un livello di attività che va dal camminare, andare in bicicletta, il ballo, cioè attività anche piacevoli, non pensare solo a delle attività impegnative, possono rallentare ed evitare la progressione, ecco, verso questi aspetti. Quindi come vi state tenendo in forma? Professoressa Lunardelli, ne riparliamo perché Deborah deve dare i mercati, e quindi chiediamo anche ai nostri ascoltatori come vi state mantenendo in forma. Cuore e denari. Al 349-238-6666 ci scrivono degli ascoltatori segnalandoci dei casi di tentativi appunto di truffa ai danni degli anziani. Maila da Prato: carissime, 10 minuti fa ho salvato una mia vicina da un raggiro o da una possibile rapina da parte di due giovani autodefiniti dipendenti Enel. E devo dire che la società è perfettamente consapevole di queste vicende. Sono fuggiti quando ho minacciato di chiamare il 113 se non fossero spariti in un minuto, ma ciò succede sempre più spesso. Un altro ascoltatore ci segnala che a Bergamo sono in giro appunto questi presunti che si spacciano come tali funzionari sempre dell'Enel, sono in giro a truffare le persone. Allora, lo dicevamo prima, come è noto la microcriminalità in estate aguzza l'ingegno e, a parte le case vuote, le vacanzieri, chi ne subisce le conseguenze sono soprattutto le persone anziane, ed è partita già da qualche giorno la campagna di sensibilizzazione e prevenzione della Polizia di Stato contro le truffe degli anziani. La campagna si chiama Sicuri ad ogni età. Suo figlio mi ha detto che deve ridarmeli lei i miei 100 euro. 100 euro? Sì, guarda, io non posso più aspettare, io ho i miei problemi, sono un sacco di spese. Lei che diceva che sono 100 euro? 100 euro? E non ci vogliamo mettere un po' di interesse? Sa che le dico, guardi, facciamo proprio 113. Ecco qua, 113. 113 Polizia Operatore 1, come posso aiutarla? Bravo, questa sì che è una bella mossa. E così dovete fare tutti i nonni e le nonne libere d'Italia, come ha fatto il signore. Non ci dovete cascare. 800 24 00 24. Vi abbiamo chiesto se avete notato dei cambiamenti nei vostri familiari o in voi stessi. Adesso vi chiediamo se vi è capitato di essere stati vittime di un raggiro o di una truffa, o è successo ai vostri genitori, ai vostri nonni, magari proprio in estate, quando voi non eravate pronti ad aiutarli. Raccontateci la vostra esperienza e come vi siete comportati. E se siete voi stessi persone un po' avanti negli anni, e questa mattina vi abbiamo un po' stuzzicato su questo argomento, magari non ci avevate mai pensato e adesso vi siete detti: sai che c'è, fammi un po' mettere da parte un numero di pronto intervento per denunciare in maniera istantanea qualora appunto mi capitasse questo, qualcuno che prova ad approfittarsene. Se il numero non ce l'avete, noi invece ce l'abbiamo e l'abbiamo chiamato, e ci ha risposto il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, la dottoressa Stefania Marrazzo, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno a voi e benvenuta, e grazie naturalmente, grazie, soprattutto per il lavoro che fate, perché l'impegno delle forze dell'ordine su questi episodi è molto intenso e ci raccomandano sempre di tenere alta la guardia, ma è chiaro che la popolazione anziana, particolarmente nel periodo estivo, dottoressa Marrazzo, abbassa le difese ed ecco che diventa psicologicamente indifesa, vulnerabile. Voi avete dei dati piuttosto interessanti sull'aumento dei fenomeni di criminalità ai danni degli anziani. Sì, le confermo, c'è stato un aumento dal 2011 al 2013, sono cresciute le vittime di reato di truffa nei confronti delle persone anziane, degli over 65, e precisamente nel 2012 si è registrato un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente, nel 2013 del 7,8% rispetto a quello precedente. Si registrano poi 13.537 truffe a danni dei soggetti anziani nell'ultimo anno, ma questi dati non fanno altro che esprimere un fenomeno che è l'effetto di tre cause fondamentali. La prima causa è una causa di tipo endemico sociale, cioè l'aumento nel nostro paese del numero di over 65. Il nostro paese, sappiamo, è un paese che si sta avviando inesorabilmente verso un processo di invecchiamento demografico. Di conseguenza, l'aumento degli over 65 determina chiaramente un aumento dei reati commessi a danno di queste persone. Un'altra causa che non deve essere sottovalutata è quella che riguarda proprio la tipologia di questo tipo di reato, della truffa. Si tratta di un tipico reato contro il patrimonio, e la diffusione di questi reati nel nostro paese è direttamente proporzionale al livello di crisi che il paese sta attraversando. L'Italia, lo sappiamo, è un paese che presenta dei forti segni di crisi economica, problematiche di disoccupazione, e laddove chiaramente si registrano queste situazioni c'è l'aumento naturale di questo tipo di reato, che si configura come un'azione che va ad aggredire il patrimonio altrui. L'altro aspetto che non dobbiamo trascurare invece sono proprio le caratteristiche di questo reato. Che cos'è la truffa? La truffa è una condotta che si perfeziona con artifici e raggiri. L'artificio è una manipolazione, un'alterazione della realtà, sostanzialmente è la capacità di riuscire a far credere cose che in realtà non sono vere, mentre il raggiro agisce proprio sulla psiche della persona. Ora, è evidente che le persone anziane sotto questo aspetto, quindi sotto l'aspetto eminentemente psicologico, sono sicuramente molto più fragili delle categorie giovanili, non perché siano meno astuti dei giovani, ma per un semplice motivo, perché l'anziano che vive purtroppo spesso in una condizione di solitudine, proprio perché le relazioni umane si sono rarefatte, è più spinto ad un atteggiamento di apertura nei confronti dell'altro, anche anche se è uno sconosciuto, gli dedica più tempo e quindi il truffatore, il malintenzionato, ha più tempo per agire. Certo, dottoressa Marrazzo, le chiedo un attimo di pausa prima di darci le regole di comportamento suggerite dalla Polizia di Stato per evitare di finire nelle sfide di malintenzionati in casa. Nicoletta, magari possiamo chiedere un commento alla dottoressa Lunardelli? Volevamo appunto chiedere alla professoressa Lunardelli di così spiegarci questa fragilità psicologica dell'anziano, ma nel corso della trasmissione vorremmo anche chiedere dei consigli da dare agli anziani per non farli vivere nella paura, ma per renderli più capaci di affrontare anche queste situazioni. Professoressa Lunardelli. Concordo con molte delle cose che ha detto la dottoressa Marrazzo. In effetti la persona anziana ha questi aspetti di solitudine che quindi facilitano sia l'avvicinamento da parte di queste persone, perché non c'è comunque un controllo sociale su questo. Poi perché l'anziano, vivendo questa condizione in solitudine, è aperto appunto a... Sì, vuole compagnia e quindi si fida. Attaccano discorso spesso anche al supermercato, si vede che hanno proprio bisogno di parlare con qualcuno, perché vivono da soli in casa, non riescono quindi ad avere dei buoni rapporti sociali. E questo li espone appunto a quello che diceva poi la dottoressa, che c'è più tempo per queste persone di mettere a segno poi i loro raggiri. Per quanto riguarda la psiche, al di là delle vere e proprie patologie che possono essere la depressione, il deterioramento cognitivo, non direi che c'è una maggiore fragilità in questo senso, perché appunto c'è magari una disinformazione. Quello che state facendo è molto utile, credo, come altre campagne, perché gli anziani siano informati sul fatto che ci sono queste persone che possono danneggiarli, ma non credo a casa, che ci sia una fragilità in questo senso. A casa e anche fuori casa, perché molti anziani vengono proprio intercettati fuori dai supermercati, al giardinetto. Hanno questa necessità, per questo è importante, vorrei riprendere un attimo quello che diceva prima la signora che ha telefonato, è importante la partecipazione sociale, le relazioni sociali per gli anziani, proprio perché questo li espone meno poi ad essere appunto avvicinati da persone sconosciute, perché hanno comunque una rete sociale in cui vengono informati di molte cose, scambiano delle opinioni. Come sempre l'unione fa la forza, anche in questo caso. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme tra poco. Cuore e denari. Mettiti questa. Ma io faccio il palo. Ma che mi lasci da solo, dai. Io faccio il palo. Mettiti questa. 5 minuti è fatta. C'è un'altra. Ma questa è una che vive di pensione, la pensionata. Aspetta. Abbiamo sbagliato casa. Michele, è cascato qualcosa. Oddio, i ladri. Tutti i cassetti aperti, la roba per terra. Come sono entrati? Michele, corri! Ma sono entrati i ladri! Ma che c'è l'ubbelo? Ma come hanno fatto a entrare? Mamma mia! Non c'è niente noi, ma che c'è l'ubbelo? E allora, dottoressa Stefania Marrazzo, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, un breve commento prima di salutarla su quelli che possono essere gli atteggiamenti di prevenzione, le regole di comportamento suggerite dalla Polizia per evitare di finire nelle spire di malintenzionati in casa, ma dicevamo appunto possiamo imbatterci in queste situazioni e in tante altre situazioni, appunto in strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche addirittura utilizzando internet, perché gli anziani sono comunque sempre più moderni in certo qual modo, e però appunto magari non conoscono tutte le regole di difesa dal web. Infatti, proprio per questo la Polizia di Stato è molto attenta a queste problematiche degli anziani e anche per quanto riguarda il discorso delle truffe online, e quindi suggerisce agli over 65 di fare particolarmente attenzione nella scelta della password, che può essere chiaramente una password complessa, composta di numeri e di lettere, anche con le maiuscole e le minuscole, quello di evitare di aprire delle mail se arrivano da persone sconosciute, e inoltre di non aprire mai delle mail nelle quali magari si prospettano dei falsi guadagni o delle vincite, perché probabilmente si tratta di qualche truffatore che sta tentando di entrare all'interno del sistema. Dottoressa Marrazzo, solo un'ultima raccomandazione: la questione invece dei finti funzionari delle società del gas, della luce eccetera, siccome so che le compagnie sono pienamente consapevoli di questo fenomeno, voi siete in contatto anche con loro, come li tenete sotto controllo? Perché allora, questi alla fine ce la fanno sempre ad entrare nella casa di qualche malcapitato e a trafugare appunto dai cassetti oro, soldi e tutto quello che trovano. Perché probabilmente bisogna sempre ricordare che questi enti di erogazione di servizi non mandano a domicilio dei propri funzionari, perché quando ciò dovesse accadere vengono affissi all'interno degli androni dei palazzi degli avvisi con l'indicazione del giorno e dell'orario in cui questa attività viene svolta. E un ulteriore consiglio che la Polizia di Stato si sente di dare a tutti gli over 65: nel caso in cui qualcuno dovesse bussare alla loro porta, intanto acquisire informazioni sulle generalità, nome e cognome, sul numero di tesserino, verificare se magari è stata parcheggiata sotto lo stabile la macchina di queste persone e telefonare all'ente di appartenenza per verificare se questo tutto è questo o no. Prima di aprire? Esatto. Prima di aprire. E in ogni caso non avere mai alcuna esitazione nel caso in cui dovessero avere delle perplessità e dei dubbi sulla identità della persona a digitare il 113. Eccoci qua, raccomandazione finale, drastica. Dottoressa Marrazzo, voglio chiederle se si tratta di una leggenda metropolitana o se ha un fondo di verità. Capita soprattutto anche nel posto dove io, un piccolo paese dove vado in campagna, recentemente due signore sono state, hanno così raccontato, avvicinate da due persone che gli hanno spruzzato uno spray e, pur essendo vigili, non erano coscienti, hanno consegnato ai malfattori il denaro, la pensione e qualche oro. Allora, si parla, si sente parlare spesso di questo spray, ma esiste, è vero? Ne avete notizia oppure è diventata una leggenda metropolitana? Allora, a noi in realtà capita di ricevere delle denunce da parte dei cittadini che appunto ci dichiarano di non ricordare nulla di quello che è accaduto, perché sembrano essere in una situazione di stordimento provocata, a loro dire, dall'uso di bombolette spray. In realtà noi, quando poi abbiamo proceduto a dei sopralluoghi, non abbiamo mai avuto riscontro di questo. Sono soltanto situazioni che sono state narrate da parte delle vittime dei reati. Però insomma, chissà se la professoressa Lunardelli ha una spiegazione per questo, e forse è la forte ansia. Posso intervenire? Certo. Sì, stavo aspettando la risposta della dottoressa Marrazzo per capire se ci sono, perché l'idea che spesso mi sono fatta quando ho avuto modo di parlarci con questi anziani è che la ferita che hanno avuto alla loro immagine, quindi di essere stati truffati, è talmente forte che non possono ammettere di aver dato fiducia a qualcuno, di essersi fatti raggirare. Quindi spesso ricorrono anche a queste spiegazioni. Ecco, diciamo che per un anziano il danno, oltre che economico, è anche un danno molto importante a livello psichico, perché li fa entrare in uno stato di grande insicurezza e soprattutto di perdita di autostima, perché cominciano a pensare di non essere più all'altezza, di non essere stati capaci di difendersi, e questo è un danno peggiore, certo, direi, di quello economico. Non ci sono solo le truffe, i ladri, il ruolo del settore pubblico è molto importante anche nella gestione della popolazione anziana nelle grandi città in agosto, quando si svuotano e a volte cercare un aiuto per la quotidianità diventa difficilissimo. Allora io volevo salutare, ma gli devo già chiedere subito una cortesia ancora prima di sentirlo, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Maiorino. Assessore, buongiorno e grazie. Buongiorno. Noi fra un minuto dobbiamo andare in pausa, lei ha 10 minuti di tempo per scavallare il secondo programma? No, perché dovevamo sentirci alle 11:30. Ecco qua che subito ci bacchetta, ragione. Allora ci dica in un minuto, assessore, che cos'è l'anagrafe delle fragilità di Milano e soprattutto quante iniziative mettete in piedi appunto nel corso dell'estate per sostenere gli anziani? Ma diciamo che l'anagrafe della fragilità è un elenco di nomi di cittadini anziani che abbiamo stilato grazie ad ASL Milano, che sono quelli che riteniamo maggiormente a rischio quando si combinano in estate due problematiche: una quella evidentemente legata all'aumento della temperatura e l'altra quella dello svuotamento delle città e quindi del fatto che queste persone sono più a rischio e più sole. È un'anagrafe fatta da circa 6.700 nominativi, che sono quelli di cittadini con problematiche di salute e di solitudine che riteniamo essere più esposti. Poi c'è un'altra anagrafe però, che è quella a cui noi guardiamo con grande attenzione, che è quella di 24.000 cittadini utenti anziani, che per noi sono quelli comunque a rischio perché presentano, diciamo, situazioni che sul piano della salute e quindi della necessità di cura e sul piano delle relazioni e quindi della necessità di, diciamo così, non essere lasciate sole, vanno seguite quotidianamente. Cuore e denari. Quando sarò vecchio di quelli che nessuno vuole avere intorno. Perché ha visto tutto e ha fatto tutto e non sopporta quelli che ora è il loro turno. Mi rispetteranno come si rispetta il tempo che separa lo studio dall'esame. Spero di esser sazio dei miei giorni, eviterà il mio sguardo chi c'ha ancora fame. Abbiamo avuto il blitz dell'assessore alle politiche sociali di Milano, Pierfrancesco Maiorino, che ha comunque avuto il tempo di raccontarci in che cosa consiste l'anagrafe delle fragilità di Milano, questa sorta di così, documento che viene redatto ogni anno dal Comune in collaborazione con le ASL e i medici di famiglia, dal quale praticamente si evince che sono circa 7.000 gli anziani fragili, cioè persone con più di 75 anni che vivono da soli e comunque risultano anagraficamente soli e sono in precarie condizioni di salute, per cui appunto una volta avuta questa fotografia il Comune si attiva con diverse iniziative per monitorare lo stato di salute, ma non solo, anche le condizioni e le necessità di queste persone. C'è un numero verde del Comune che è l'800, stamattina ne abbiamo dati tanti, Nicoletta. Diamo anche questo di Milano, 800-777-888, che si può usare per segnalare casi di persone non autosufficienti e soli che si trovano in difficoltà. C'è anche l'iniziativa per segnalare appunto i malati di Alzheimer. Qua c'è un altro numero verde che è allestito con la collaborazione dell'AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Milano Onlus, per il sostegno dei pazienti e soprattutto delle famiglie. Ma in ogni caso, adesso, siccome non possiamo elencare tutte le iniziative del capoluogo lombardo, naturalmente invitiamo gli interessati a appunto a prendere conoscenza di queste iniziative, sicuramente presso il Comune, ma non solo, in modo tale che qualora si abbia, come dire, la sensazione che si ha, certo, un anziano magari vicino che ha questo bisogno, quindi sappiate che il Comune è allertato. Ma segnalateci anche che cosa sta organizzando il vostro Comune per l'estate degli anziani. 800 24 00 24, insieme con noi la professoressa Lunardelli. Professoressa, lei quali consigli dà ai familiari di una persona anziana prima delle vacanze? Chi devono allertare? Ci sono dei controlli da fare? Un colloquio col medico curante? Sì, come avete sentito, quello, i sistemi che mettono in atto i comuni sono per le persone sole, anche dal punto di vista, quindi, che hanno anche una vulnerabilità sociale oltre a quella fisica. Per le persone che hanno famiglia, che hanno figli, che li seguono abitualmente ma che devono allontanarsi, è chiaro che questi aspetti della, che abbiamo visto prima, di dare una sicurezza anche a livello sociale, cioè qualcuno che rimane, a cui fa riferimento, vedere se nel palazzo appunto ci sono delle persone che garantiscono una certa, come dire, sorveglianza e solidarietà in caso di necessità, e per gli aspetti invece più strettamente clinici è chiaro che i pazienti, io scusatemi, sono un medico e tendo sempre le persone anziane che soffrono di più patologie importanti come quelle cardiovascolari, quindi soffrono di scompenso cardiaco, di insufficienza respiratoria, cioè hanno problemi polmonari o insufficienza renale, sono persone che devono essere monitorate dal medico di famiglia, e in particolare in estate, avendo queste persone di solito più farmaci per le patologie che devono assumere, è importante, questo è un principio proprio gerontologico, geriatrico, una revisione costante dei farmaci che si assumono, proprio perché cambiano anche le condizioni temporaneamente. Certo. Facciamo un esempio, in estate la pressione fisiologicamente scende un po', per questo si dovrebbe, insieme al medico curante, ritarare un po' la terapia. Ho fatto questo esempio, ma ce ne sono altri, professoressa. Ho fatto un esempio perfetto, perché appunto l'ipertensione è la malattia più diffusa tra la popolazione in generale, e quindi poi in particolare gli anziani. E gli anziani assumono questi farmaci a causa anche dei cambiamenti climatici, ma anche dei cambiamenti legati all'invecchiamento, non riescono a compensare bene con la termoregolazione, e quindi se già prendono dei farmaci che abbassano la pressione c'è un rischio di avere un ulteriore calo, fino ad avere delle vere e proprie collassi, sincopi. Quindi questi farmaci, che tra cui in particolare i diuretici, che sono quelli che fanno appunto eliminare i liquidi in grandi quantità, e noi sappiamo che uno degli interventi da fare durante l'estate è assumere delle adeguate quantità di acqua, a meno che non ci siano delle controindicazioni, per esempio lo scompenso cardiaco, non si possono assumere grandi quantità di liquidi. Allora in quel caso è opportuno garantire un ambiente in cui ci sia appunto una temperatura almeno sui 26 gradi in casa, perché l'anziano altrimenti perde, attraverso appunto i diuretici che deve assumere e il calore, perde liquidi e quindi va incontro al rischio di disidratazione, che è poi l'effetto maggiore, diciamo, del colpo di calore, e quindi porta a aumento anche della temperatura. Poi ci sono, professoressa Lunardelli, dei segnali, dei sintomi che un familiare di una persona anziana dovrebbe conoscere, tenere sotto controllo sempre, ma in modo particolare in estate, perché questo periodo dell'anno, che per una serie di ragioni scombussola un po' i ritmi. Penso ad esempio ai cambiamenti di umore, alla mancanza di energia della persona anziana, il carattere cambia improvvisamente. 800 24 00 24, se volete segnalarcelo, perché potrebbero essere dei campanelli d'allarme. Secondo me tu hai introdotto Manuela da Grosseto. Manuela, buongiorno. Sì, buongiorno conduttrice, buongiorno all'ospite. Ci dica. Ma niente, io ho chiamato perché mi preoccupa un po' l'atteggiamento che ha nei confronti proprio della vita mio marito di recente. Cioè, è una persona che ha 65 anni, è una persona intellettualmente molto attiva, ma assolutamente pigra sotto il profilo fisico, non fa nessun genere di attività fisica, è leggermente sovrappeso, e a me sembra che da qualche tempo a questa parte abbia anche un atteggiamento, diciamo, più negativo nei confronti della vita, quindi più pessimista, più intollerante, insofferente. Ora, non so se attribuirla a un fatto caratteriale, alla fascia avanza o alla grafica. Esattamente. E invece anche al fatto che diciamo queste energie che non si esprimono in nessuna maniera, perché appunto lo stile di vita è assolutamente sedentario, a differenza del mio, per esempio. Cioè, faccio questo raffronto perché siamo più o meno coetanei, però io sono più magra, mi muovo di più, faccio un po' di sport e in generale insomma mi sembra di affrontare la vita con un maggiore ottimismo. Voglio sapere anche dalla dottoressa se appunto se solo attribuirla a un fatto caratteriale all'età che avanza o se invece questa inattività quasi totale può incidere negativamente, tra l'altro con l'aureo iperteso per natura e per familiarità. Grazie Manuela. Professoressa Lunardelli, allora, che cosa diciamo a questa moglie un po' preoccupata? Giustamente, sì. Beh, escluderei l'età perché già di per sé, tanto ha 65 anni, non è un grande vecchio, non è una persona fragile. Secondo, l'età di per sé non è mai un fattore di malattia, cioè l'età non è una malattia in sé, ma dobbiamo pensare che ci sono delle malattie che aumentano all'aumentare dell'età. E per esempio i sintomi che descrive la signora possono essere collegati anche a una perdita di ruolo, il pensionamento, avere meno interessi e progressivamente però in base anche a quelle che sono, come diceva lei, anche gli aspetti così del temperamento della persona, possono anche sfociare verso una sindrome depressiva dell'anziano, molte volte sfumata, quindi non con sintomi eclatanti della depressione maggiore, ma che comincia appunto con un ritiro sociale, minore interessi per svolgere. Ecco, la depressione, tra l'altro, professoressa Lunardelli, che negli anziani viene sovente sottodiagnosticata. E quindi poi sottotrattata, e invece è un fattore di per sé di non solo di buona qualità di vita, ma anche di fattore di rischio anche per ulteriori malattie. Per motivi biologici, ma anche per motivi psichici, per cui la persona depressa tende anche a trascurarsi dal punto di vista. Cosa può fare Manuela o le persone che notano che il loro familiare si sta un po' spegnendo nei confronti della vita? Con chi si deve parlare? Una visita pediatrica in questo caso consiglierei, anche se è un 65enne, però prima ancora dello psichiatra direi il geriatra, anche perché è sempre bene fare un'anamnesi complessiva, che non si può fare certo al telefono, per vedere se ci sono anche delle cause organiche che possono sostenere questo stato di astenia e di svogliatezza, cioè quindi escludere prima le cause organiche, che ce ne sono e sono tante, l'anemia, altre patologie a volte anche importanti, insomma, che vanno. A volte non è semplice convincerli, vero Deborah? Si può partire dal lato organico, appunto, per questo dico il geriatra è quello che avendo una visione complessiva della persona, sia sull'aspetto squisitamente fisico, organico, ma anche sempre non tralascia questi aspetti di tipo cognitivi, comportamentali, affettivi che riguardano appunto questa sfera più delicata, ma inserita all'interno della stessa visita, quindi non è. Quindi lei mi sta dicendo, professoressa Lunardelli, che lo attiriamo nell'ambulatorio del geriatra, esatto, dicendo vieni a farti controllare la pressione, esatto, ma in realtà il geriatra, che è un medico informato, che ha un approccio olistico, perché non si occupa ad esempio solo del danno d'organo, di una malattia in particolare, ma vede proprio il paziente inteso come persona, sì, nel suo complesso è in grado di valutare sociali, se... Per esempio tiene molto conto di quello che viene detto dalla moglie, che è la persona che è in grado di riferire delle cose che il paziente stesso non si accorge, certo, di se stesso. Tra l'altro, senza per questo ora preoccupare la signora, spesso dei sintomi così di tipo apatia, depressione possono essere anche l'inizio di un progressivo così deterioramento cognitivo. Quindi va preso anche questa, è una diagnosi, ecco, come dire, da fare in maniera tempestiva, perché molte volte oltretutto se trattati i sintomi dell'umore depressivi, noi riusciamo anche a ridurre quegli aspetti cognitivi che sono collegati, cioè per esempio prima si parlava delle truffe, una persona che vive questa condizione di appunto umore depresso è più facilmente avvicinabile da altri, più facilmente raggirabile, ha meno diciamo così prontezza, e quindi trattare questi sintomi è importante per tutti gli aspetti che dicevo, quindi consiglierei proprio una visita di questo tipo che ha una capacità di inquadrare la persona nella sua totalità. Ritornerei alle testimonianze dei nostri ascoltatori, un grande uomo Roberto che da un bel po' che aspetta, però con grande pazienza appunto ha voluto seguirci fino a questo momento, e adesso Roberto ci racconta, credo, come sta combattendo l'età che avanza, no? Roberto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Roberto. Innanzitutto vi seguo sempre quando è possibile, la mattina. Grazie. Quando non sono a lavoro. E niente, io, se si può anche dire, comunque io ho fatto il volontariato e lo faccio tuttora con senza fissa dimora, con una scuola privata. Sì. Se vuoi dico anche il nome. Sì. Perché Liceo no? Montini. Liceo Montini. Liceo Montini. Quello di Porto Romano. A Milano, sì. E poi anni fa, ahimè, sono, non c'è più, 2008, e deceduta mia madre, ho curato mia madre 24 su 24, praticamente, un po' stata un po' pesante di alzarmi a mia madre. Lei quanti anni ha, Roberto, se posso chiedere? Sì, volentieri, 54. Ah, vabbè, insomma, pensavo che fosse ancora un po' più avanti, sono andato per l'approccio che ha avuto appunto nella telefonata. Complimenti per tutto. Peraltro, a proposito di assistenza ai malati di Alzheimer, volevo segnalare anche la mail che ci scrive Ernesto, e promettiamo con Nicoletta ed Ernesto che questo sarà un tema che da settembre sicuramente monitoreremo con grande attenzione, magari con una certa costanza. Ernesto ci racconta che l'esigenza di assistenza giorno e notte per gli anziani allettati trova una risposta da parte dello Stato con un piccolo sostegno finanziario che lui in questo caso è di 470 euro. Io adesso non saprei quantificare se si tratta di un supporto che varia secondo me o se varia a seconda del reddito, che cosa. Ovviamente sono soldi che non possono risolvere il problema, dice Ernesto, e a questo punto sono i figli che devono supplire a questa mancanza di assistenza. Ernesto, cosa vuol fare? D'altronde come loro si sono presi cura di noi quando eravamo non autosufficienti e molto piccoli, poi la ruota che gira comporta anche se mi rendo conto che oggi dovendo lavorare in tempo di crisi diventa difficile. Ernesto, andiamo a Bologna? Andiamo a Bologna naturalmente. Anna, buongiorno. Buongiorno, è un po' che vi ascolto e volevo dare il mio contributo. Io sono una persona anziana, 74 anni, e per tenere la mente attiva è da 3 anni che io frequento l'università, la facoltà di lingue, ma non della terza età, è l'università normale che frequentano gli studenti giovani. Sì. E io sono una uditrice, ossia quando mi sono presentata ho chiesto all'insegnante se potevo frequentare i suoi corsi, e l'insegnante, molto gratificata per sapere che una persona non iscritta all'università voleva frequentare il suo corso, e mi ha accettata. Ho comprato i libri di testo. Sì. Faccio gli esercizi, vengo ogni tanto interrogata dall'insegnante, spronata a seguire il corso. Si prende tutto il bello e non fa gli esami. Sì, sì, io non ho voluto iscrivermi perché non ho nessuna intenzione di laurearmi, però è da 3 anni che questo, il frequentare la facoltà di lingue mi dà veramente uno stimolo mentale non indifferente. E io lo trovo, diciamo, veramente Un'ottima idea anche perché pochi conoscono, perché io questo lo feci anche da giovane frequentando un'altra facoltà, e siccome a me piacciono molto le lingue anche da giovane, e molti non lo sanno che si può frequentare come uditrice qualsiasi facoltà, eccetto credo medicina e facoltà dove c'è bisogno di seguire il laboratorio. E molti non lo sanno, invece costo zero e poi la possibilità veramente di mantenersi attivi, in forma. Anna, lei da oggi è il nostro mito, direi, no? E fa bene. Possiamo, Anna, perché certo, viene a contatto con anche delle persone giovani, si tiene in forma, fa andare la testa, come si dice. Professoressa Lunardelli. Sì, mantiene sì, soprattutto quelle funzioni che sono quelle del linguaggio importanti nell'invecchiamento cerebrale. E volevo aggiungere solo questo, che siccome l'aspettativa di vita a 65 anni, cioè quando adesso un cittadino italiano arriva a 65 anni, se una donna 21,6 anni di aspettativa, e se un uomo 18,2 un po' meno, comunque sono tanti anni da, in cui uno può fare ancora dei progetti per sé, per la propria famiglia, per essere utile a intanto a mantenersi in forma, come abbiamo detto, sul piano fisico e mentale, ma anche essere di aiuto, certo, agli altri, cioè di essere attivi. Adesso si parla, infatti c'è un programma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che parla di invecchiamento in salute attivo, e il 2020 è, diciamo, l'obiettivo per un healthy aging, appunto. I cardini sono proprio questi: sulla prevenzione, un buon stile di vita, nutrizione, movimento, e relazioni, attivazione sociale, certo, impegno nel sociale, lavori utili, stimolazione cognitiva, eccetera. Tutti questi sono gli aspetti proprio per che ci permettono di affrontare la vecchiaia in modo sereno e attivo, se la salute, come si dice, ci assiste. Professoressa Lunardelli, di aggiungere vita agli anni, e non adesso abbiamo aggiunto degli anni alla vita dell'uomo, adesso bisogna aggiungere vita, e vita non è solo lasciarsi vivere o sopravvivere, ma è appunto, che bel messaggio finale, aggiungere vita agli anni dopo che gli anni si sono aggiunti alla vita. E noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo come sempre appuntamento a domani. Buona, buona giornata. Cuore e denari.